L'uomo nel diluvio, ideato, scritto e diretto da Simone Amendola e Valerio Malorni, con Valerio Malorni, una produzione Blue Desk, residenza produttiva Carrozzerie Not, con il supporto di Zetema, e in collegamento abbiamo al telefono Simone Amendola. Simone, ben ritrovato. Eccoci qui, grazie. Mi sono commosso. Ah, davvero? Mi sono commosso, io l'avevo visto a Carrozzerie Not, ero rimasto folgorato, l'ho fortemente voluto, vi ho inseguito per tutto questo tempo, l'ho risentito quando mi hai mandato le due registrazioni e risentendolo adesso senza vedere le immagini mi sono commosso nuovamente. Insomma, un gran bel lavoro, complimenti. Bellissimo, calcola che era la prima cosa che volevo chiederti. Volevo chiederti, il primo spettatore del, cioè, audio sei stato tu. Sì. Quindi ero curioso di sapere che cosa, sì, che sì, cosa sì, arrivava. Vabbè, sì, poi sì, magari appunto tu, avendolo visto in qualche maniera, comunque il, diciamo, una dimensione del fuoricampo dell'audio ce l'avevi. Io un po' ero preoccupato da questo, nel senso, sì, che chiaramente che per il racconto è anche movimento, è anche, sì, tempi, sì, scenici, quindi... sì. Infatti, per chi ci ascolta, spieghiamo che manca tutto il contributo video, mancano i silenzi, mancano i movimenti di scena. Chiaramente ho cercato, facendo questo estratto, di comunque di mantenere tutto. Mi sembra che così sia, insomma, rende tutto veramente, sì. Devo dire, una grande liricità nel testo, questa è la prima impressione anche al semplice ascolto. Simone, guarda, sì, c'è una ragazza di Bologna che si chiama Federica Ortaggi, che vide lo spettacolo a Bologna e che al teatro ITC, tipo, vabbè, appunto, poi dopo lo spettacolo c'è stato un incontro, diciamo, che abbiamo fatto con gli spettatori, e lei qualche giorno dopo scrisse una cosa veramente molto bella, dicendo che la recensione finale di questo critico tedesco, sì, che poi è un po', diciamo, la summa poetica di tutto lo spettacolo, a lei faceva venire una cosa di stalkeraggio verso gli autori, e non mi ricordo, però citava tipo un libro in cui c'era questo lettore innamorato talmente, cioè talmente affranto da un pezzo poetico che era diventato un'ossessione per gli autori. E quella cosa veramente mi colpì, penso è, diciamo, l'obiettivo non razionale, ma di cuore, di chi racconta una storia, ecco. Sì, e anche chiaramente il parallelo tra l'esperienza di Valerio a Berlino e le parole di questo critico tedesco raffrontate, sono due parti di uno stesso insieme che veramente va dritto all'anima. Sì. Ma guarda, lo spettacolo nasce in un anno in cui, appunto, sia io che Valerio veramente volevamo andarcene dal paese, e appunto per due motivi diversi. Io perché, appunto, avevo una sceneggiatura ferma venduta ad una produzione ma che non partiva, e Valerio, appunto, per altri motivi, appunto, era anche un po', diciamo, insoddisfatto magari da una certa stasi teatrale generale. Sì. E quindi praticamente ci siamo trovati, che era un po' che volevamo lavorare insieme, e ci siamo trovati fondendo diciamo due poetiche, ma anche un momento reale che stavamo vivendo, e quindi in qualche maniera la realizzazione di questo spettacolo, l'ideazione, la stesura del testo, fungeva un po' da percorso di trasformazione di una delusione forte che vivevamo. Mm-hmm. E quindi dentro, diciamo, il meccanismo di raccontare una storia vera, cioè di renderla verosimile, quindi in qualche maniera di far vivere un'esperienza allo spettatore come se stesse di fronte ad una storia che gli si compie sotto gli occhi, una storia vera. Non so, a me mi viene in mente, appunto, che poi l'ho visto dopo, il documentario Searching for Sugar Man, in cui in qualche maniera tu ti trovi davanti a una storia talmente assurda che dici a un certo punto reale o no è magica, me la porto anch'io nella vita. Sì. Perché appunto, no, diciamo, siamo sempre in bilico tra le cose decise dal destino e le cose decise da noi. E la storia, appunto, L'uomo nel diluvio voleva essere un passo per raccontare una storia che fosse decisa da un po' dal destino, ma soprattutto dal protagonista, una risposta, diciamo, al diluvio, alla palude. Quindi dentro, dall'invenzione della storia appunto a Berlino, a tutte, diciamo, le dimensioni poetiche che ci sono dentro, le riflessioni sull'uomo da solo, sull'uomo nella società, su tutte le migrazioni, diciamo, da sud verso nord, perché poi è un po' quello ad un certo punto, sì, forse il punto di forza dello spettacolo, quando nella recensione appunto lui mette in relazione tutti quelli che vanno da sud verso nord e appunto dice no, bisognerebbe migrare verso il sole e l'amore, invece si va dove c'è neve e rigore. Sì. Quindi ecco, diciamo è una summa appunto di un momento di grande intensità, ecco, nostra, e che poi è riuscita ad emergere sia nel testo ma anche nel linguaggio scenico e nella cifra anche di recitazione, certo. Su cui abbiamo lavorato tanto, nel senso che poi a un certo punto lo spettacolo è diventato quello che è soltanto alla prima. Perché nelle prove appunto il lavoro era tutto questo, cioè togliere qualsiasi cosa di recitazione per far sì che quella storia fosse vera fino in fondo. E la sera della prima a Napoli è successo. Ecco. Senti, Simone, dal punto di vista letterario mi incuriosisce molto le parole del critico tedesco, come sono state tradotte e adattate? Allora, praticamente ormai dopo, diciamo, 3 anni di spettacolo non c'è nessuno spoileraggio, però appunto è tutto completamente falso. e quindi praticamente quella recensione lì è stata scritta dentro Blue Desk un giorno di dicembre del 2013, molto emotivo. E poi è stato fatto il lavoro al contrario, certo. Da questo nostro amico tedesco che si chiama davvero Ulrich von Leuer, è un ricercatore, e l'ha tradotta fedelmente in tedesco con i termini appunto di una persona colta, diciamo. Sì. Ecco. Senti, lo chiedo anche a te, visto che l'ho chiesto a Valerio prima. Tu vieni dal cinema e dal documentario, com'è stato l'incontro con lui dal punto di vista artistico, che invece viene dal teatro? Ma guarda, è molto naturale, nel senso che poi fondamentalmente siamo amici da diverso tempo, quindi c'era sempre un po', okay, questa idea, nel senso che appunto io magari per il teatro già scrivevo da prima, però era un bel po' che non facevo un lavoro. Avevo scritto questo testo che si chiama Porta Furba, che era stato anche pubblicato nel 2000, e poi avevo scritto piccole cose, ma un po' perché appunto il teatro stressa, perché lo fai una volta e poi doverlo rifare è una pratica, un po' per amore del documentario. Comunque alla fine mi ero spostato di qua, avevo trovato comunque degli stimoli, diciamo, forti nel racconto della realtà attraverso il documentario. Però diciamo quella cosa appunto l'ho sempre amata e ho sempre continuato a scrivere per il teatro. Quindi con Valerio appunto varie volte ci eravamo detti di fare qualcosa insieme, io andavo a vedere lui veniva a vedere le cose mie, e quindi poi a un certo punto, diciamo, è stato, ecco, assolutamente naturale. Ma artisticamente penso che forse ci troviamo come poche persone. Nel senso che è proprio una complementarità, sì, totale, nel senso che poi quando, cioè, io magari ho provato comunque a lavorare con tante altre persone e molte volte comunque per quanto ci sia assonanza, però tante cose vanno spiegate. mentre invece capitano a volte delle magie che sia umanamente che artisticamente non va spiegato nulla, nel senso che la minima intuizione si sta già in due un passo avanti. E questa cosa appunto è stata comunque una cosa bella che poi appunto sta andando avanti. Dopo abbiamo fatto un altro spettacolo insieme, abbiamo in mente di farne un altro con Valerio, e quindi diciamo appunto molto clamorosamente naturale, direi. Sì, sì. Allora, questo spettacolo sarà in scena, come dicevo prima, all'interno della campagna per salvare lo spazio Blue Desk. Ce ne parli un po'? Sì, grazie. Allora, niente, c'è questa campagna che mi rendo conto, devo dire, che la conosce tantissima gente, perché ultimamente dovunque vado, il Blue Desk, c'è Ken Loach, poi magari non sanno che cos'è. E sì, praticamente abbiamo lanciato questa campagna di crowdfunding dal 5 settembre al Festival di Venezia, alle giornate degli autori, per salvare questa nostra sede che è sala di proiezione, di incontri, concerti, ma fondamentalmente diciamo la rampa di lancio di tutti i progetti di Blue Desk, sia di teatro che di cinema. E abbiamo una situazione abbastanza complessa con l'ATER che gestisce questo luogo. Praticamente per non buttarci fuori ci hanno fatto una richiesta assurda chiedendo a noi soldi non pagati dai precedenti locatari. Sì. Una cifra impossibile, perché 15.000 euro, quindi noi stavamo per abdicare a luglio, e poi invece con un colpo di reni abbiamo detto scriviamo a Ken Loach, se Ken Loach ci risponde partiamo col crowdfunding. E Ken Loach dopo nemmeno 24 ore ci ha mandato la sua foto con scritto My desk is blue e quattro righe, perché vabbè, con lui appunto c'è un rapporto diciamo da vario tempo, nel senso io la prima volta che l'ho incontrato mi imbucai sul set di Ticket. Che lui venne a girare a Roma facendo finta che ero uno di Vigne Nuove, perché lui è innamorato del quartiere Vigne Nuove e quindi andò a fare i provini per le comparse lì. Quindi io entrai sul set, poi girai un piccolo backstage e poi dopo, quando abbiamo fatto Quando combattono gli elefanti nel 2008, l'abbiamo rintervistato e poi abbiamo fatto una retrospettiva su di lui alla Casa del Cinema nel 2015, una settimana gratuita. Quindi vabbè, c'era un rapporto, però non era scontato, certo, che lui si spendesse subito. E invece l'ha fatto lui, poi l'hanno fatto le Pussy Riot, poi tutta un'altra serie di artisti ci hanno messo la faccia, con cui abbiamo lavorato, e niente, siamo partiti. Quindi su Produzioni dal Basso c'è questo crowdfunding che, devo dire, ha avuto molto calore fino adesso, e noi lo stiamo supportando, ecco, sia appunto online ma soprattutto facendo anche eventi live. E abbiamo fatto una cena di sostegno a Casetta Rossa, abbiamo proiettato il Gobbo del Quarticciolo in piazza al Quarticciolo, che è stata una serata molto bella. Adesso facciamo questo spettacolo, poi abbiamo dei concerti, faremo una retrospettiva Final Touch, Le donne al cinema. Quindi ecco, per chiunque volesse interessarsene e contribuire anche con poco, però il successo è il poco di tanti, sul nostro sito bluedesk.it. Benissimo. Allora Simone, ancora complimenti, un abbraccio, ci si sente e ci si vede. Grazie di cuore, è stato un bel passaggio andare in radio con lo spettacolo. Bene, bene. Allora a presto Simone. Ciao. Ciao, ciao, ciao.